Vogliamo continuare a lodare il Signore attraverso la sua parola. E oggi torniamo a, non so se ricordate, l'ultima volta che ho predicato io abbiamo predicato dalla Santa Cena, quindi dalla storia della Santa Cena. Continuiamo a raccontare questa storia della Santa Cena, dove il Signore, leggiamolo insieme che cosa fece quella sera. Da Marco, questa volta leggo da Marco, però ho trovato anche in Matteo, c'è scritto: mentre mangiavano Gesù e i dodici, mentre mangiavano prese il pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. La scorsa volta abbiamo visto come questo illustra non solo quello che è la Santa Cena, quello che è questo atto che noi facciamo per ricordare Cristo e quello che Lui ha fatto, ma in realtà Cristo, Gesù, in questo atto, alla Santa Cena, descrive chi Lui è, perché Lui era ed è ancora il pane della vita e Lui il pane lo prende, lo spezza e lo dona. E abbiamo visto la scorsa volta la prima parola di queste quattro. Vi ricordate quali erano le quattro parole? Chi c'era? Chi si ricorda almeno un millesimo? Nessuno. Benissimo. Quindi benissimo che sto facendo questo riassunto. Così c'è. Le quattro parole alla Santa Cena erano queste quattro: prese, benedì o benedisse, spezzò e diede. La scorsa volta abbiamo guardato la prima parola e abbiamo visto come è vero di Cristo che Lui è stato preso. Abbiamo detto che si potrebbe usare anche un altro termine, cioè scelto. E abbiamo visto come è stato preso dal Padre, il Figlio, preso, scelto dal Padre, da eternità passata per uno scopo ben preciso. Qualcuno si inizia a ricordare? Ah, grazie a Dio, grazie per queste mani. E abbiamo visto che questo è vero di Gesù, però noi come discepoli di Cristo Gesù, per essere sempre più come Lui, per seguirlo, essere sempre più come te. Questa è la nostra preghiera per quest'anno. Questo è il desiderio più profondo, essere più come Cristo, essere più come te. Per essere più come Lui abbiamo bisogno di essere consapevoli della nostra identità. E la nostra identità, come Cristo, come Gesù, è presi, scelti. La scorsa volta abbiamo visto come Cristo, noi siamo stati scelti dal Padre, da eternità passata, siamo stati visti dal Padre Eterno per uno scopo ben preciso. Se non ricordate bene questo messaggio, potete andare sempre a rivederlo. Questa domenica guarderemo la seconda parola. Qual è la seconda parola? Benedì, alcuni di voi stanno seguendo, quindi prese o scelse, benedì, pronunciò la benedizione, spezzò e diede. Gesù era consapevole della sua identità. Lui sapeva da dove veniva, dal Padre, il motivo per il quale era qui su questa terra e dove andava. Gesù era ben consapevole di questa identità. E se noi vogliamo essere come Lui, trasformati a sua immagine, e allora lo dobbiamo contemplare, lo dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare a questa consapevolezza che il Signore aveva per diventare più come Lui. Anche noi abbiamo bisogno di questa consapevolezza della nostra identità. Noi dobbiamo sapere da dove veniamo, perché siamo qui e dove andiamo. E il secondo termine getta luce proprio su questo. Oggi mediteremo la seconda parola, che è benedisse o benedì. Gesù prese il pane e lo benedì. Che cosa significa benedire? Che cosa significa benedizione? Beh, nel contesto immediato della Santa Cena era proprio pronunciare una benedizione sul pane. E i giudei lo facevano già in altre occasioni, Gesù l'ha fatto anche in altre occasioni. Quindi nel contesto immediato è proprio pronunciare una benedizione sugli elementi, sul pane. Però in senso più generale o più ampio, benedire significa proprio, indovinate un po', dire bene. Il termine greco è elogeo, elogio, il verbo è elogeo, dal quale noi richiamiamo la parola elogiare, no? Suona, no? Quindi proprio elogiare, dire qualcosa di buono, di bello, di giusto, di qualcuno, di qualcosa o di qualcun altro. Questo è quello che significa benedire. E guarderemo insieme a come, o guardiamo insieme a come Cristo, Dio, è benedetto e come noi in Lui lo siamo altrettanto. Quindi guarderemo la nostra identità. E non c'è un verso migliore che racchiude questo, proprio getta luce proprio su questo principio, cioè siccome Dio è benedetto, lo siamo anche noi in Cristo Gesù. E il verso è in Efesini, si trova in Efesini al capitolo 1, al verso 3. Leggiamolo insieme, dovrebbe essere già su, ok. Lo lasceremo qui tutto il tempo, perché guarderemo, cercheremo di guardare almeno a tutti i principi che sono contenuti, anche se velocemente. Però il verso dice questo: benedetto sia chi? Dio. Quindi Dio è benedetto. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi benedetto la Trinità, possiamo quasi dire, no? Dio, Padre, Figlio, manca lo Spirito, ma benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Vedete la danza? Lui benedetto, noi benedetti in Lui. Perché Lui è eternamente benedetto, noi lo siamo anche. Quindi, che cosa significa che Dio è benedetto? Perché questo verso solleva tante domande. Non so a voi, però a me ha sollevato tantissime domande. Innanzitutto, chi è questo noi? No? E c'è scritto ci ha benedetti, ci ha a noi benedetti. Noi chi? Se facciamo un salto indietro, ai versi prima, Paolo sta scrivendo ai santi di Efeso. Quindi a coloro che sono in Cristo Gesù, coloro che hanno creduto in Cristo Gesù, coloro che hanno riposto la propria fiducia in Cristo Gesù e adesso lo seguono, i credenti, i cristiani, questi sono i santi, questi sono i benedetti, perché sono in Cristo, sono benedetti in Cristo. Questi sono benedetti. Quindi abbiamo risposto a una domanda, però come dicevo ci sono tante domande, però cercheremo di rispondere solo a due, d'accordo? Ci siete? Fate così con la testa, se siete d'accordo. Due domande. Una, che cosa significa benedire Dio? Come si benedice Dio? Che cos'è benedire Dio? Prima domanda. Lo so che erano già tre, però diciamo erano tutte affini, no? La seconda domanda di contro è che cosa significa che noi siamo benedetti? Che cosa significa che io sono benedetto e posso essere benedetto in Cristo Gesù? Quindi guardiamo alla prima domanda. Che cosa significa benedire Dio, che Dio è benedetto? È mai possibile che l'inferiore, noi esseri umani, possiamo dare qualcosa a Dio? È mai possibile che noi possiamo aggiungere o migliorare chi Dio è a quello che non ha? La risposta scontata è no, mai. Noi non possiamo aggiungere nulla a Dio. Lui è già perfetto e Lui è già pienamente soddisfatto. Non potremmo mai aggiungere nulla o dare mai nulla a Dio. Dio non ha bisogno di noi e non ha mai avuto bisogno di noi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito erano perfettamente in sintonia, amati e si amavano, non avevano bisogno di nulla e non hanno bisogno di nulla. Sono già perfettamente benedetti. Anzi, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è vero, tutto ciò che potete immaginare di bello è già di Dio e noi non glielo possiamo dare e non possiamo aggiungere nulla a Dio. E quindi, che cosa significa benedire Dio? Se certamente significa che non possiamo dargli nulla, che non possiamo aggiungere nulla a Dio, che cos'è benedire Dio? Benedire Dio è riconoscere quello che Lui già è e affermare quello che Lui già ha e dire tu sei buono, buono, buono, tu sei giusto, tu sei grande, tu sei glorioso, tu sei perfetto e perfettamente puro. E fratelli e sorelle e amici, il nostro amen. Che cosa significa amen? Così si o così è. Quando noi benediciamo Dio, stiamo dicendo così è. Così già tu sei il centro dell'universo, non c'è niente di più glorioso, non c'è niente di più meraviglioso, io ti benedico, io dico il bene di te perché è già vero. Questo è quello che significa benedire Dio, è fra Dio e fra il padre e il figlio. Quando ho riflettuto a questa cosa mi è venuto subito in mente una storia. Quale? Ricordate al battesimo di Gesù? Quando il Signore è uscito dalle acque, lì vediamo la Trinità, che è un mistero. Se volete spiegarlo, se volete capirlo, non ci provate, è impossibile. Però lì è Dio che benedice Dio. Il Padre dal cielo dice, questo è il mio amato figlio, in lui io mi sono compiaciuto. Il Padre dice il bene del figlio. Non è meraviglioso? Noi ci uniamo a questo canto, noi ci uniamo a questa danza e riconosciamo chi Dio è. Mettiamo il nostro sigillo e diciamo amen, questo è quello che tu sei, io lo riconosco. E come facciamo a riconoscerlo? In questo tempo presente, come facciamo a riconoscere che Dio è buono, che Dio è giusto, che tutto quello che Lui fa è saggio e che Lui è in controllo su tutto l'universo, tanto più che sulla nostra storia mondiale, storia regionale, storia personale. Tutto quello che avviene, Dio lo sta facendo cooperare al suo proposito per il suo beneplacito, per citare un versetto. Come facciamo a dire il bene di Dio? Io faccio personalmente un po' fatica a volte, perché i giornali online li leggo anch'io, viaggio addirittura in alcuni di questi posti, toccato con mano quella che è la sofferenza e la disperazione, e quindi quando ci penso troppo a quello anche che ci sta accadendo, dico, Signore, ma veramente sei buono? Veramente sei giusto? Veramente sei in controllo? Perché sono l'unico che fa fatica a dire il bene di Dio quando la mia fede vacilla e quando i dubbi arrivano? Beh, forse non sono l'unico, però sicuramente non sono il primo. E molto probabilmente non sarò l'ultimo. Giobbe, il saggio Giobbe, nel bel mezzo della sua sofferenza aveva perso tutto, si fa le stesse domande. Parafraso, Signore, ma sei giusto? Sei equo? Io ero buono, ho camminato nelle tue vie e guarda cosa mi è successo. È impossibile che tu sia giusto e in controllo. Non mi sarebbe mai accaduto tutto questo. Che stai facendo, Dio? Grida Giobbe al Signore. E il Signore risponde. Ricordate il libro di Giobbe? Fa bene leggerlo ogni tanto. E se vi posso suggerire, tutto di un fiato, anche sorvolando un po' sulla discussione degli amici, ma soprattutto arrivando alla fine, quando avete di questi dubbi. Il Signore risponde a Giobbe? Ni. Nel senso che gli risponde con una domanda. E Dio risponde a Giobbe con questa domanda. Dove eri tu, Giobbe, 38 verso 4, 12, 35, li ho saltati giusto per raggruppare un po' tutti i capitoli 38, 39, 40 che potete leggere. Dove eri tu, Giobbe, quando fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il luogo dell'aurora? I fulmini partono forse al tuo comando? Ti dicono ecco, essi, eccoci qua. Dio per Giobbe mette le cose in una prospettiva eterna. Non credo che lo stia neanche ignorando, ma gli sta alzando lo sguardo oltre le circostanze momentanee, perché Dio è eterno e fa le cose in accordo a un piano eterno che non ha a che fare con un giorno, con una settimana, con una vita neanche di 80 anni, o un secolo, il secolo nel quale ci troviamo. Il Signore è buono, giusto, fedele al suo piano, equo, tutto quello che pensate di Dio, in eterno, e sta portando avanti il suo piano. A questo Giobbe risponde al Signore e dice: riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Chi può cambiare il tuo disegno? Chi senza intelligenza può pensare di capirti pure? Ne ho parlato, sì, io Giobbe, ho parlato a te, mi sono lamentato, ho detto: ma è possibile che sia giù? Ne ho parlato, ma non lo capivo, non capivo tutto. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, Giobbe dice al Signore, ascoltami e allora parlerò e ti farò delle domande e tu insegnami. Vedete cosa fa il Signore verso Giobbe? Il Signore verso Giobbe gli dice: senti, se non sai come far sorgere il sole, se non sai creare il cosmo e mantenerlo in perfetto ordine quotidianamente, ogni istante, sono cose troppo alte per te, non puoi capire certe cose. E Giobbe riconosce, dice: sì, sì, Signore, hai ragione, sono troppo grande. Allora ti faccio qualche domandina e tu magari mi rispondi se vuoi. Vedi cosa fa Giobbe? Giobbe benedice Dio. Giobbe dice il bene di Dio, riconosce chi Dio è, riconosce che Lui è eterno, ha un piano eterno, che ci sono cose a noi, per noi, troppo piccole, troppo difficili da capire, ma per Lui no. Lui è benedetto ed è così che noi, nella nostra sofferenza, nelle nostre incertezze, nelle nostre ansie, nelle nostre confusioni, nei nostri dubbi che vengono, e va bene se vengono, però non possiamo fermarci lì. Dobbiamo guardare al Signore, alla sua parola, e benedirlo, imparare a benedirlo nel bel mezzo di queste circostanze. Questa è la nostra rocca solida, questa sarà la nostra ancora, questo sarà la nostra zavorra che ci manterrà in piedi nel bel mezzo di qualsiasi tempesta, per quanto brutale la sofferenza potrà essere. Benedetto sia il Dio e il Padre di Cristo Gesù, nostro Signore. Dio è benedetto. Questo significa benedire Dio, affermare quello che Lui è il nostro Amen a Lui. E la seconda parte è che Lui ci ha benedetti. Come Dio, come Cristo Gesù, anche noi siamo benedetti. Ora, in maniera simile, ma non uguale. L'abbiamo detto anche la scorsa volta questa cosa. Noi siamo benedetti, noi siamo scelti in maniera simile ma non uguale, e noi siamo benedetti in maniera simile ma non uguale. Che cosa significa, seconda domanda, vi ricordate? Che cosa significa che noi siamo benedetti? Che cosa significa questa parte della nostra identità, che in Cristo Gesù, se siamo in Lui, se riponiamo la nostra fiducia, la nostra vita, la rimettiamo nelle sue mani, che cosa significa che questo scatena tutte le sue benedizioni per noi? Significa alla stessa maniera che Gesù afferma il bene che vede in voi, in noi? Significa: oh, guarda quanto è bravo Gianluca, guarda me. Sono proprio felice e contento di Lui. Lui sta affermando il bene che c'è in me. No, nessuno è giusto, neppure uno. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Allora che cosa significa che noi siamo benedetti? Significa che quando Dio ci benedice, quando Dio dice il bene su di noi, come quando ha detto sia la luce, come quando ha detto sia la terra, come quando ha detto siano gli animali nel cielo, gli animali sulla terra, gli uccelli del cielo, quando ha detto sia l'uomo, così lui dice sia il bene nella tua vita. Quando Dio parla, dice il bene su di noi, lo porta in esistenza, lo crea in noi. Quando non c'era, Dio crea il bene in noi. Questo è quello che significa che noi in Cristo Gesù, quando ci riponiamo in Lui, tutte le sue benedizioni diventano vere in noi, diventano sì e amen per noi, per citare un altro versetto. Questo è quello che significa che Dio le porta in esistenza, le parla in esistenza. Quali sono queste benedizioni? Sicuramente sono i beni temporali, il fatto che hai una casa, il fatto che hai cibo, il fatto che hai vestiti, il fatto che abbiamo l'aria condizionata, il fatto che abbiamo sedie, tutto, ogni cosa è un dono da Dio e dobbiamo ringraziarlo per questo, è un bene, è il suo, lo vedi il suo bene nella sua vita? Oh, per occhi più aperti, e parlo dei miei, nel vedere intorno a me tutto il bene che lui parla e porta in esistenza nella mia vita. Però questi beni terreni capitano a tutti, lo dice la Bibbia stessa, il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questi beni sono per tutti. Tu immaginate un po' come sarà l'assenza di Dio, l'assenza del bene, della sua benedizione. Chiusa parentesi. Qual è il bene del quale Paolo parla anche in questo versetto? Paolo dice che in Cristo Gesù noi siamo benedetti di ogni benedizione, tutte le benedizioni, sono tutte, non una, qualcuna, tutte le benedizioni spirituali nei luoghi celesti. Queste benedizioni sono quelle più eterne, verso le quali dovremmo alzare i nostri occhi come ha fatto Giobbe e come Giobbe, verso quelle che non sono confinate al nostro giorno, al nostro mese, al nostro momento di vita o a tutta la nostra vita. Il Signore ci invita a non guardare, diceva l'Apostolo Paolo, alle cose che si vedono, perché sono momentanee, passeggere, ma guarda quelle che non si vedono, perché quelle sono eterne. A questo siamo chiamati a guardare, a queste benedizioni, quelle che sono eterne. Giusto per guardare oltre a quello che l'Apostolo Paolo scrive solo alcuni versetti dopo, anche qui salterò, però dice eletti prima della fondazione del mondo. Questa è una mia benedizione, è una tua benedizione. Se sei in Cristo Gesù, sei stato eletto, guardato prima dalla fondazione del mondo per essere santi e irreprensibili. Questa è un'altra benedizione. Predestinati nel suo amore. Io sono stato predestinato da eternità passata a ricevere il suo amore. Che rincorro a fare l'amore di quello, di quell'altro, o l'attenzione di quello, di quell'altro, o quello del Signore. Quale benedizione è questa? Adottati per mezzo di Cristo Gesù come suoi figli. Questa è una mia benedizione eterna. Io sono figlio. E anche qui la mia tendenza è dubitare. Forse qui sono l'unico, però vi apro il cuore. Perché troppo spesso la mia preghiera è: benedetto sia Dio, e lì riesco ad arrivarci, no? Ok Signore, se guarda le cose eterne, se leggo Giobbe, ok, riesco a benedirti. Però poi la preghiera prosegue, dice: benedetto sia Dio che spero e confido mi abbia benedetto. Dice: ma Signore, dai, ogni tanto guarda da qui. Non è l'identità che noi abbiamo in Cristo Gesù. L'identità che noi abbiamo in Cristo Gesù è scelto, è benedetto, è già nostro. Non so se avete letto bene il tempo del verbo in questo verso, è al passato, ci ha benedetti. E anche se ha passato, è una verità eterna, sempre presente, cioè ci ha benedetti nel passato, è vero ancora oggi che ci benedice, ci benedirà in eterno. Questa è la nostra identità se non vediamo queste cose, se non riesco, se dubito di queste cose, se faccio quella preghierina, Signore, speriamo che me la cavo, speriamo che tu mi possa benedire, voglio crederlo. E allora abbiamo gli occhi ciechi. I miei occhi sono miopi, non riesco a vedere. Per questo l'apostolo Paolo, alla fine di questo stesso capitolo, del primo capitolo di Efesini, prega e dice: io prego che gli occhi del vostro cuore possano essere aperti e vedere. E vedere cosa? Vedere la speranza alla quale noi siamo stati chiamati in Cristo Gesù, che noi possiamo vedere la speranza. Questa benedizione è una speranza, la speranza è una benedizione, che i nostri occhi possano essere aperti a questo, alle ricchezze della nostra gloriosa eredità, il fatto che siamo figli e che tutto quello che appartiene a Dio apparterrà a noi in Cristo Gesù. Altro che ricche, altro che Bezos o chi per lui. Le sue eredità sono nostre, questa è la nostra identità, questa è la nostra benedizione. Che Paolo continua a pregare che la potenza, che gli occhi del nostro cuore possano essere aperti alla potenza che opera in noi. E questa potenza che opera in noi è la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti. Parlando di potenza, quella potenza, se io non la vedo, sono miope. Se io questa benedizione non la vivo, sono cieco. E va bene così. Sapete, il Signore mi ama comunque. Il Signore ti ama comunque. Il nostro grido: apri gli occhi del mio cuore. Apri gli occhi del mio cuore che io possa vedere. Apri, apri, apri gli occhi del mio cuore. Fratelli, sorelle, amici, non illudiamoci. Non possiamo illuderci. Se non siamo in Cristo Gesù, non ci sono benedizioni. Se non siamo in Cristo Gesù, cioè se non prendiamo, vedete come è esposto il corpo, tutta la nostra vita la riponiamo in Lui, in fiducia, e la rendiamo a Lui, e la rendiamo ad obbedire a tutti i Suoi comandamenti, a quello che Lui ci indica come strada. Se non siamo in Cristo Gesù, non abbiamo le Sue benedizioni. Punto. Se non siamo in Cristo Gesù, il suo spirito non dimora in noi e non porteremo frutto. Punto. Non commettete l'errore. Vabbè, ma io sono una persona buona, non ho fatto male a nessuno, vengo sempre in chiesa, seguo questa fede da tanti anni, tutto a posto. Non sentirti troppo a posto se non sei convinto di essere in Cristo Gesù. È un errore mortale, eternamente mortale. In Cristo Gesù, se non sei in Cristo Gesù, il suo spirito non è in te e non porterai frutto. Se sei in Cristo, sei una nuova creatura. Vivi e vivi per davvero. Se sei in Cristo Gesù, tutte le sue benedizioni, tutto il suo dire bene, tutto il suo portare in esistenza le bontà e le giustizie di Dio nella tua vita si compiono. Se sei in Cristo Gesù, il suo spirito è in te e tu porterai frutto. Tu porterai, se sei in Cristo e il suo spirito è in te, tu porterai frutto. Punto. Dillo alla persona che ti sta accanto. Tu porterai frutto se lo Spirito è in te. Tu porterai frutto, è inevitabile. Tu porterai frutto. Però qui non dobbiamo commettere un altro errore che io troppo spesso commetto. È che il frutto, quando inizia e quando nasce, si vede. Si vede. Chi ha notato che io questa mattina sul palco ho portato un arancio? Un arancio. Questo è un arancio di un mese. Ed è già bello grosso, eh? Perché se lo portavo di una settimana sarebbe stato un terzo di quello che è. A volte commettiamo l'errore di dire: Signore, ma non cambia niente in me. Non vedo niente in me. Dov'è la gioia? Dov'è la pace? Dov'è l'autocontrollo, frutti dello Spirito? Dove sono tutte queste cose? Io non le vedo. Di nuovo, se non sei in Cristo Gesù è ovvio che non ci sono. Ma se sei in Lui, non commettere l'errore di voler vedere subito l'arancio bello, grosso, maturo, rosso e succoso. Il Signore non va di fretta. Noi forse sì, Lui no. Chiedetelo a mia cognata se 9 mesi fa sapeva nulla del frutto che aveva nel suo grembo. Forse qualche settimana dopo, con le nausea, già sì. Però proprio quando è stato concepito, il frutto era già lì. Si vedeva, si percepiva. Non commettere l'errore, perché il frutto è così piccolo nella tua vita, di credere che non ci sia. C'è, forse deve crescere. E per questo preghiamo, per questo continuiamo a seguirlo, per questo continuiamo a pregare come te. Dio è benedetto in eterno. Lui è buono, giusto, sovrano, in controllo, amoverevole come nessun altro. E noi lo benediciamo. Questo è il nostro amen a Lui. E tutte queste cose le riserva su di noi che siamo in Cristo Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi. Se questa mattina sei qui e dubiti un pochino come me, o molto più di me, o meno di me, non ha importanza. La nostra preghiera, il nostro desiderio è diventare sempre più come te, come Cristo Gesù. E la mia preghiera per noi è che possiamo appropriarci di questa verità, che siamo benedetti in Lui. E questa mattina abbiamo la Santa Cena. E non c'è modo migliore per fare questo in memoria di Lui. In memoria del fatto che Lui è stato preso, scelto dal Padre per noi, per essere spezzato e dato, ed è stato benedetto. E che noi in Lui possiamo esserlo. Possiamo ricevere tutte le benedizioni spirituali nei luoghi celesti. In Cristo Gesù, in Cristo Gesù. E quindi partecipiamo alla Santa Cena, ricordando questo, in memoria di Lui. Gesù prese il pane, Lui che era il pane della vita, lo benedì, lo spezzò, lo diede, disse mangiate. E lo stesso fece con la coppa del sangue, la coppa del nuovo patto, il sangue che lava, il sangue che purifica, il sangue che rende ogni cosa nuova. Dice fate in memoria di me, ricordando me e quello che io sono per voi. Ricevete questo bene, questa benedizione dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito questa mattina mentre celebriamo. Sceglielo di fare con una persona magari che ti è a fianco. Pregate l'uno per l'altro, che possiate aprire gli occhi del che possiamo insieme aprire gli occhi del nostro cuore. Preghiamo l'uno per l'altro. Signore, prega per l'altro, Signore, che tu possa aprire gli occhi del cuore di mio fratello e della mia sorella, che possa vedere sempre di più le benedizioni che ha in te, la speranza, l'eredità, la potenza che ci sono in te. Preghiamo l'uno per l'altro e celebriamo la cena del Signore. Può celebrare la cena del Signore chi è in Cristo Gesù. E come Chiesa, è una regola che l'abbiamo determinata così, non c'è scritto, però è una regola che ci siamo dati noi per ordine. È chi è battezzato da adulto, chi ha preso quella decisione consapevole da adulto di dire sì, io prendo la mia vita, letteralmente la rimetto in Cristo Gesù. Questa è la testimonianza che noi diamo, è l'atto che noi diamo e facciamo attraverso il battesimo. E quindi tutti quanti che sono battezzati da adulti possono partecipare alla cena del Signore. Se sei qui questa mattina e non sei, sai di non essere in Cristo Gesù, o hai qualche dubbio, non uscire da questa stanza se non hai gridato a Lui e non hai detto sì, Signore, io ho bisogno di essere. Che significa mettersi in Cristo? Che cosa significa fare quel passo di fede? Significa ammettere, Signore, sì, io sono spiritualmente morto, lo riconosco, non c'è speranza in me. Sì, sono una persona buona, faccio tutto quello bene, o sono andato sempre in chiesa, tutto quello che voglio, non sono andato in chiesa, a prescindere, però riconosco che c'è una morte in me, che non conosco, non ti conosco come ti si può conoscere, e tutte le tue benedizioni non sono ancora le mie. Ti prego, vieni, vieni a dimorare in me, vieni ad abitare in me, vieni a vivere in me, porta il tuo spirito affinché io possa iniziare a portare quel frutto, affinché io possa ricevere tutte quelle benedizioni. Con i nostri occhi chiusi, se c'è qualcuno che dice: sì Gianluca, io non sono convinto di essere in Cristo, e allora io ti chiedo in questo momento di alzare la tua mano, dalla prima all'ultima fila, alza la tua mano per dire: Signore, io voglio essere in te, voglio la piena certezza che io sono in te e tu sei in me. Grazie per le mani alzate, grazie per le mani che si stanno alzando in questo momento, che riconoscono la necessità di Cristo. Padre, io prego per queste persone con le mani alzate, e Padre, con fede e fiducia nelle tue promesse, che a chiunque chiede è dato, e a chiunque confessa il proprio peccato, la propria morte spirituale, tu dai vita. Nel nome di Cristo Gesù, io prego la vita su queste mani alzate, su queste confessioni di fede. Nuova vita nel nome di Cristo Gesù. Amen, Chiesa? Amen. Giuriamo insieme per queste vite arrese al Signore. Possiamo partecipare alla Santa Cena adesso. Chiunque di noi sente di partecipare nel voler ricordare Cristo e voler abbracciare il come te nell'essere benedetto, allora ricordiamolo attraverso la Santa Cena.